Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Bentornati dunque a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, che riprende il tema di Pinocchio che abbiamo già affrontato la settimana scorsa, anche per in qualche modo indagare sulla mostra che è in corso alla Sala Borsa di Bologna fino al 19 del mese, con due esposizioni, una quella legata al Pinocchio di Verdini con le didascalie di Rodari, quell'altra legata al Pinocchio immaginato da Vinicio Berti. Ma al di là delle illustrazioni, cerchiamo di analizzare il Pinocchio al cinema nelle sue 1001 versioni, e lo facciamo con Piero Di Domenico, critico cinematografico, che appunto ci narra la Pinocchiade, chiamiamola così, nel grande schermo e non solo. I primi esempi poco noti naturalmente sono quelli che risalgono all'epoca del muto, cioè una primissima versione che venne realizzata già all'inizio degli anni 10 da un regista del muto italiano di cui oggi si è un po' perso il ricordo, che si chiamava Giulio Antamoro. Questo per dire quanto questa figura insomma abbia sempre attratto in qualche modo anche il desiderio di rappresentarla da un punto di vista cinematografico. Ci sono però ovviamente anche dei rischi, e ci sono stati anche forse dei danni, cioè nel senso che la versione più nota cinematografica del Pinocchio, quella firmata, animata, firmata da Walt Disney nel 1940, due premi Oscar e via dicendo, in qualche modo prese delle libertà notevoli rispetto al libro di Collodi, e in qualche modo fu capace di influenzare anche la conoscenza di Pinocchio, nel senso che molte generazioni del dopoguerra hanno conosciuto Pinocchio attraverso la versione animata della Walt Disney, non attraverso l'originale. E questo, faccio un esempio banale per dire che cosa comporta una figura come ad esempio la fata turchina, che nel film della Disney viene profondamente modificata, non dico stravolta ma quasi, rispetto all'origine. Ecco, quindi il rischio di un'interpretazione che a volte insomma può diventare un vero e proprio stravolgimento. Recentemente anche la cinematografia italiana ha lavorato su Pinocchio, Benigni per esempio. Sì, gli anni 2000 devo dire che hanno riproposto un interesse, hanno riacceso, no, un interesse verso questa figura. Io credo però anche per un motivo preciso, cioè che erano passati un po' di anni da un altro modello che era stato fondamentale, che era la versione televisiva del Pinocchio di Comencini, che è stato probabilmente un punto di riferimento, credo anche irripetibile per molti punti di vista, per la qualità di una produzione televisiva di questo tipo e per la capacità anche di avere un grandissimo successo popolare. Però negli anni 2000 erano già passati dei decenni, e quindi autori come Benigni o come Garrone in qualche modo sono pronti per proporre le proprie letture, e devo dire con impatti sicuramente più ridotti, no? Rispetto a quello che era stato appunto il grande Pinocchio di Comencini. Il Pinocchio è un personaggio che appunto attraversa i decenni di tutto il Novecento. Quanto risente dell'influenza del momento? Per esempio il Pinocchio recente, di un Pinocchio ribelle nel fascismo, parla forse della Spagna di Vox. Ma io credo che il Pinocchio è un personaggio internazionale, veramente uno dei pochi personaggi della nostra letteratura che è riuscito ad assumere un valore internazionale anche da un punto di vista ovviamente cinematografico. Non è un caso che in questi ultimissimi anni, addirittura due anni fa, nel 2022, abbiamo avuto, no, la versione di Guillermo del Toro, quella di Robert Zemeckis, cioè di grandissimi autori che si sono avvicinati e accostati a Pinocchio. E il fatto che ovviamente Pinocchio sia in qualche modo uno specchio dei tempi, io sono assolutamente d'accordo. E mi piace citare una delle versioni più sovversive della figura di Pinocchio, che è quella di Carmelo Bene negli anni 60, in cui uno spettacolo teatrale che poi ebbe anche una versione cinematografica, nel senso che lo spettacolo venne ripreso, in cui la figura di Pinocchio, ripeto, negli anni, come dire, che cominciavano a essere quelli della contestazione, della messa in discussione di tanti, tanti principi, di tanti valori, e Carmelo Bene propone un Pinocchio come prototipo, come campione interpretazione dell'italiano medio, o meglio, di un personaggio che diventa l'italiano medio, cioè che in qualche modo si redime rispetto alle sue colpe, cioè essere quasi fisiologicamente un bugiardo, un menzognero, per entrare, come dire, in una sorta di aurea mediocritas. Ecco, Pinocchio l'abbiamo visto quando è direttamente protagonista della vicenda, ma molto spesso vedi il pioniere con Chiodino di Berti da spunta a personaggi che sono pinocchieschi. Nel cinema, per esempio, c'è l'intelligenza artificiale. Sì, devo dire che forse il Pinocchio più Pinocchio è paradossalmente è un film che Pinocchio che non è ispirato direttamente, cioè che non è una trasposizione dall'opera di Collodi, ma è un film che chiaramente e forse più di tutti gli altri che abbiamo detto è un atto quasi di devozione. Sto pensando, come dicevi tu, insomma, ovviamente a AI, il film che Steven Spielberg ha realizzato nel 2001 e che è stato un progetto accarezzato per molti anni da Stanley Kubrick, che Kubrick non è riuscito a realizzare e che poi Spielberg invece ha portato sullo schermo, ed è un film pinocchiesco anche nei personaggi di contorno, perché nella figura della madre di questo bambino robot che capace di provare emozioni, che come Pinocchio vuole diventare un bambino vero e quindi provare dei sentimenti, farsi amare da chi ha vicino, e peraltro, insomma, AI è un film dove ci sono delle riletture estremamente intriganti anche dal punto di vista visivo. Ad esempio, il paese dei balocchi diventa una rutilante Las Vegas, dove si trova anche un circo di mangiafuoco che probabilmente esce fuori dall'immaginario steampunk. Ecco, altri film, pensiamo ai film di Tim Burton per bambini, poi in realtà sono profondamente per adulti. I bambini molto spesso escono un po' angosciati dalle Christmas Carol di Burton o altro. Ecco, Pinocchio, secondo te, è un personaggio per adulti o per bambini? Ma io penso che sia un personaggio per tutti, nel senso che ognuno ci può, come dire, ognuno può prenderlo e può trarne, insomma, degli elementi in cui rispecchiarsi, in cui esorcizzare delle paure, dei timori, e questo vale sia per i bambini che per persone più grandi. Quindi la lettura ancora oggi di Collodi, L'avventura di Pinocchio, è un libro che è ancora di grande attualità. È un libro che non solo è di attualità oggi, ma credo che avrà un'attualità anche nel futuro. Carissimo Pinocchio, amico dei giorni più lieti, di tutti i miei segreti, che confidavo a te. Carissimo Pinocchio, ricordi quando ero bambino? Nel bianco mio lettino ti sfogliai, ti parlai, ti sognai. Dove sei ti vorrei vedere, del tuo mondo vorrei sapere. Forse Babbo Geppetto è con te. Dove il gatto che ti ingannò, il buon grillo che ti parlò e la fata turchina, dov'è? Carissimo Pinocchio, amico dei giorni più lieti, con tutti i miei segreti resti ancor nel mio cuor come allora. Sei, ti vorrei vedere, del tuo mondo vorrei sapere. Forse Babbo Geppetto è con te. Dov'è il gatto che ti ingannò, il buon grillo che ti parlò e la fata turchina? Dov'è, carissimo Pinocchio, amico dei giorni più lieti, con tutti i miei segreti, resti ancora nel mio cuore come allora, carissimo Pinocchio, amico dei giorni più lieti, con tutti i miei segreti, resti ancora nel mio cuore come allora. Dunque Pinocchio è una favola per bambini, ma non solo, anzi c'è chi vede in Pinocchio dei elementi anche molto tetri, quasi gotici, peraltro cosa abbastanza comune nelle fiabe, che non mancano di elementi horror, almeno fino alla sbianchettatura della versione disneylandiana di tutte queste favole, da Biancaneve fino appunto allo stesso Pinocchio. C'è un tema anche inquietante, molto presente in Pinocchio, il tema della morte, che viene analizzato bene da questa blogger Noise, che appunto guarda anche i misteri, per esempio, della famosa fatina. Ascoltiamo. Ossessione della morte parla a Sor Rosa uno dei più importanti critici italiani, che proprio parlando di Pinocchio ha sottolineato che, nonostante si tratti di un romanzo per bambini, presenti in più e più punti questo riferirsi alla morte e al mondo dell'aldilà. Tanto per cominciare, perché forse non lo sapete, ma la prima versione del si concludeva proprio con la morte del protagonista, impiccato da due assassini ad un ramo della Quercia Grande. La storia uscì infatti per la prima volta a puntate sul giornale per i bambini e nel suo ultimo episodio vedeva il burattino Pinocchio a penzolare con una corda al collo. Come potete immaginare, i bambini e soprattutto l'editore si ribellarono a questa conclusione e obbligarono Collodi a riprendere la storia e a dotarla di un finale completamente diverso. Certo, oggi Pinocchio sopravvive, ma nonostante questo, nella storia rimangono ancora alcune morti molto significative. Quella del grillo parlante, per esempio, che viene ucciso proprio da Pinocchio e con una martellata. E poi quella di Lucignolo, che si spegne nel modo più triste che possiate immaginare, trasformato in ciuchino e sfinito dalle fatiche. Ma soprattutto morta dalla sua prima apparizione è la fata. Pinocchio la incontra per la prima volta alla finestra di una misteriosa casa. Se avete visto il film di Garrone, questa parte è raccontata esattamente come nel libro. Collodi non la definisce ancora fata, ma soltanto bambina. Una bambina dai lunghi capelli turchini e il viso bianco come un'immagine di cera, gli occhi chiusi e le braccia strette a croce sul petto. Nel tentativo di scappare dagli assassini, il burattino invoca il suo aiuto, ma lei risponde soltanto queste parole: «In questa casa non c'è nessuno. Sono tutti morti». E poi aggiunge: «Sono morta anch'io». E come se non bastasse, tutto l'episodio della bambina è contrassegnato da una forte carica mortifera. Siamo nel mezzo della notte, il burattino è stato appena svegliato dall'oste del gambero rosso e si sta dirigendo verso il campo dei miracoli, dove teoricamente insieme al gatto e alla volpe dovrebbe seppellire gli zecchini per trasformarli in una pianta di zecchini d'oro. Così, tutto solo si avventura nel bosco, nel buio più buio che possiate immaginare. Giorgio Manganelli, autore di un interessante libro su Pinocchio, ha visto in questa parte un vero e proprio scivolamento di Pinocchio verso il mondo dell'aldilà. Camminando infatti nel buio, così buio che non ci si vedeva da qui a lì, Pinocchio, tanto per cominciare, si imbatte nello spirito del grillo parlante. Vi ricordate, come vi dicevo all'inizio, il grillo era già morto? E anche questa parte è ben documentata nel film di Garrone, anche se lì il grillo era vivo. Ma nella storia originale il grillo è soltanto l'ombra di quello che è stato nella sua vita terrena. Egli appare quasi come un fuoco fatuo, un lume da notte, che rischiara di luce pallida il tronco cavo di un albero. E lì il grillo lo ammonisce, dicendo di non proseguire. Ma Pinocchio ovviamente lo ignora, e il grillo allora conclude con delle parole che il cielo ti salvi dalla guazza degli assassini. Secondo Manganelli e secondo l'interpretazione che ha dato di questo pezzo specifico, l'ombra del grillo non sarebbe allora altro che una sorta di spirito guardiano che si propone a Pinocchio prima della discesa vera e propria, quindi soltanto la più esterna manifestazione di questo mondo, quello dei morti appunto, dentro cui Pinocchio sta praticamente per immergersi. Infatti, immediatamente dopo, nel tentativo di fuggire dagli assassini, Pinocchio si trova davanti ad un profondo e largo fosso. E che cosa sarebbe allora, secondo questa visione, il fosso, se non il limite per il mondo dei morti? Non è quindi un caso allora che Pinocchio, immediatamente dopo aver saltato il fosso, si ritrovi in un mondo che non sembra più lo stesso da cui è venuto. Nel verde quasi cimiteriale del bosco, e alla luce pallida del giorno che sta per sorgere, Pinocchio vede biancheggiare questa casa, dalla cui finestra si affaccia la bambina di cui abbiamo già parlato, una bambina che ricorda sin troppo un fantasma, in una casa che assomiglia decisamente molto ad una lapide. E infatti la bambina, che è già morta, non può esaudire le preghiere di Pinocchio. E che cosa sarebbe a quel punto se non una sorta di signora della morte? Alleata della notte ma anche del biancore lunare, il personaggio della bambina è a mio parere sicuramente uno dei più interessanti e anche spettrali di tutta la storia. Quel che c'è di notevole inoltre è che Collodi fino a questo punto non la chiama mai fata. Credeva dunque, almeno fin qui, che la bambina non fosse altro che un'ombra dal mondo dei morti? Questi del resto non sono neanche gli unici elementi di questa attrazione mortale, ve ne citerò soltanto alcuni. 1. Nel libro ad un certo punto compaiono 3 conigli vestiti di nero e recanti una bara, ma non una bara qualsiasi, la bara di Pinocchio, nella quale il ragazzino finirà dritto dritto se non prende la sua medicina. 2. In varie parti della storia il nostro burattino rischia veramente di venire ucciso e anche nei modi più brutali, che vanno dalla frittura in pentola, alla scoiatura, all'annegamento. Inoltre la maggior parte delle sue avventure, in particolare quelle più importanti, avvengono sempre di notte. L'incontro con Mangiafuoco, per esempio, o la vicenda delle faine, o ancora la partenza per il paese dei balocchi, il ritorno della fata, la comparsa del pesce cane e anche le 2 trasformazioni in cui Pinocchio incorre nel corso della storia, prima quella in ciuchino e poi quella in bambino, avvengono entrambe durante la notte. E per concludere, la storia stessa comincia, secondo l'autore, in una nottataccia d'inverno, che probabilmente nella versione originale del testo era una nottataccia d'inferno. Un dettaglio poi scomparso, o forse volutamente abolito. Insomma, ce n'è davvero di tutti i gusti, ma come giustificare una cosa del genere in un libro che teoricamente si propone per bambini? Personalmente credo che ridurre Pinocchio ad una bambinata sia un modo per sminuirlo. Il libro è infatti ricchissimo di riferimenti di altro genere e si presta ad un'infinità di letture. We'll be right back. febbraio, mese di carnevale, quindi spostiamoci nel comune di San Giovanni in Persiceto, che ha un carnevale antichissimo, infatti festeggia i 150 anni, e che col rito di questa celebrazione presenta anche una mostra. Il titolo, Le sottilissime matite di Bertoldo, una mostra promossa anche dall'Associazione Carnevale Persiceto, col comune di Persiceto stesso, e con esposizione quasi 100 artisti, tra vignettisti e fumettisti, del calibro di Altan, LK, Paolo Bacillieri, Giuseppe Palumbo, Tom Bank, Jesse Jacobs e altri nomi emergenti della scena italiana. Una mostra che sarà aperta fino al 18 febbraio, con gli orari sabato e la domenica dalle 10 alle 18. Il nostro William Piana per la trasmissione ha portato al microfono Giorgio Frascaroli, che è appunto l'organizzatore nonché fumettista di queste matite sottilissime di Bertoldo. Giorgio Franzaroli, che è il curatore dell'esposizione, grazie per aver coinvolto Radio Città Fujiko, che è molto interessata con i progetti del pioniere per quanto riguarda fumetti, illustrazione. San Giovanni in Persiceto, la figura di Bertoldo. Iniziamo da questo protagonista, allora, visto che a San Giovanni vi è questo carnevale molto tradizionale che perde le radici nella notte dei tempi, è quasi secolare se vogliamo, anzi di più, e oltretutto ha veramente dei primati molto molto importanti. Chi era Bertoldo, Giorgio? Sì, Bertoldo è un po' il santo pagano di San Giovanni in Persiceto, è la maschera che caratterizza fortemente appunto il nostro carnevale, quindi abbiamo oltre alla tradizione carnevalesca anche questo nome tutelare che ci accompagna ormai da secoli, soprattutto anche perché il suo creatore letterario è Giulio Cesare Croce, che era appunto di San Giovanni in Persiceto. Occupandomi io di satira da sempre, ed essendo di San Giovanni in Persiceto e avendo anche abitato in via Giulio Cesare Croce, era destino che pensassi a qualcosa che coinvolgesse appunto la figura di Bertoldo, che non è soltanto un ispiratore del carnevale, ma anche un archetipo satirico che ha dato via a tantissime forme artistiche e satiriche nelle varie epoche, no? Si pensi alla rivista degli anni 30 del secolo scorso, la rivista satirica appunto che rifaceva Bertoldo, dove si sono fatti le ossa il fior fiore degli intellettuali italiani, da Fellini a Scola, a Zavattini, e poi mi viene in mente Monicelli appunto, che ha tradotto il film, la novella di Bertoldo. Sì, è una figura molto molto particolare, questo furbo campagnolo insieme alla moglie Marcolfa e altri protagonisti, Bertoldino e Caccasenno. È una favola, se vogliamo, dove la satira, anche la denuncia sociale è protagonista, la furbizia, l'ingegno di questi personaggi, anche le contraddizioni. Giulio Cesare Croce ne è il curatore ed è lo scrittore, per meglio dire, l'inventore di Bertoldo, che rimane ovviamente e dà ispirazione a queste due realtà di esposizione e di incontro. Da quale iniziamo, Giorgio? Ma cominciamo da mostra in via Santa Apollinare a San Giovanni Persiceto, appunto nell'ex chiesa di Santa Apollinare, che fa anche da sede espositiva. Raccoglierà una schiera di autori infinita, perché sono quasi 100 autori che ho invitato a reinterpretare la figura di Bertoldo, e le adesioni sono state tantissime e anche sorprendenti, così tanti che è imbarazzante quasi. Si va da Altan, a Bauro, a Stefano Biseni, fumettisti giganti del fumetto come Paolo Bacillieri, Giuseppe Palumbo, poi addirittura ci sono state adesioni anche dagli Stati Uniti con Tom Bank, che è un decano del fumetto americano, collaborava con Art Spiegelman, con la rivista Rove, con Mad. E anche Jesse Jacobs, che è un giovanissimo artista, fumettista canadese, che ha ribaltato un po' il concetto di fumetto. Quindi sarà una mostra incredibilmente varia, sia dal punto di vista antropologico del personaggio che concettuale, perché poi non dimentichiamoci che Bertoldo poi è ispiratore anche di una serie di paradigmi sociali. E sono molto attuali, anche se vogliamo. Quindi, con tutto il rispetto per Bertoldo, però è più famoso di quanto si possa pensare, perché è arrivato anche oltreoceano, una grande adesione. Ho letto un dream team di autori veramente molto vasto. Avrete anche voi il famoso Sprell, dicendo, è una definizione, un modo di dire dialettale di San Giovanni per una trasformazione di un carro allegorico. Ecco, anche in mostra troveremo di questi Sprell, Giorgio. Per vocazione siamo situazionisti, quindi sicuramente ci sarà qualche trasformazione durante la serata. Lo spillo, in dialetto noi sì, diciamo al spell, no? Poi ci sono le varie campanelle. Poi ovviamente la mostra fa riferimento al Carnevale di San Giovanni in Terticeto, che ha a braccio aperto questo progetto, perché quest'anno cade il 150° anniversario del Carnevale. Quindi ci vedrà coinvolto gennaio, febbraio e marzo, quindi ci saranno 3 mesi di baccanali e festeggiamenti. Perciò la mostra, che si chiama Le sottilissime matite di Bertoldo, che fa un po' il verso al titolo originale della novella, che è Le sottilissime astuzie di Bertoldo, è una delle tante iniziative che compongono il Carnevale di San Giovanni di Bertoldo. Attecchisce proprio lo spirito carnevalesco in tutte le sue forme, ovviamente con l'egida dell'Associazione della Carnevalesco di San Giovanni, che ha sostenuto questo progetto e lo sta amando proprio visceralmente. E ci credo. Le sottilissime matite di Bertoldo, fumettisti e artisti alla corte del re, all'ex chiesa di Santa Pollinare, e sarà fino al 18 febbraio. Quante opere in mostra? È quasi un centinaio, sono quasi un centinaio, quindi ogni artista, come dicevo prima, lo ha interpretato anche mischiando, ci sono dei crossover inediti tra Lupo Alberto e Bertoldo Kattivik, quindi... questo è uno spillo, sì. Sì beh, addirittura c'è una mutazione alla Cronenberg di Ivan Manutelli e un'altra con Pierluigi Bersani di Vauro, quindi veramente è un carnevale letteralmente di vignettisti e di fumettisti. E questo è il Carnevale di Sensani, il Carnevale degli Animali, e con questo bestiario in festa noi ci congediamo dalla trasmissione, ricordando ovviamente che per risentire l'intera puntata gli indirizzi come sempre sono www.ilpioniere.org oppure www.radiostafugico.it. Ciao a tutti.